sonerea dell'onor mio. Tu sei il revo, sei il revo della tua fe. Morte o Dio, morte o Dio, ballata te. Padre fego, giusto re, giusto re. Soda pure, soda pure, soda pure, il tuo cuor, il tuo cuor. Tu sei reo, io son reva. Morte, o Dio, voglia te, padre o Morte, o Dio, voglio da te.